Acquario, gennaio. Venere dal 3 del mese entrerà in acquario, effettuando un bellissimo sestile con Giove, un Giove molto amico dell'acquario, perché lo sosterrà nella prima parte dell'anno dalla casa della comunicazione. Saranno anche favoriti i rapporti con i fratelli e con i pari. Giove sosterrà anche i piccoli spostamenti e i viaggi. Questo varrà in particolar modo per i nati nella prima decade. I nati nella terza decade, avendo ancora per qualche mese Saturno di transito, si troveranno a dover fare i conti con le loro responsabilità e impegni, magari non sempre graditi, ma che alla fine del percorso, con la primavera, saranno grati di aver potuto assolvere e scopriranno di aver avuto molto più talento del previsto. Tenete d'occhio la luna nera che dal 9 entrerà in Leone nel vostro settimo campo. Potreste incontrare persone molto affascinanti, ma attenzione, potrebbero nascondere un lato in ombra, siate prudenti. Il 18 Mercurio riprenderà il moto diretto in Capricorno, aiutandovi a chiarire in modo razionale le vostre paure e le vostre emozioni più profonde. Dal 22 Urano riprenderà il moto diretto in Toro, aiutandovi a chiarire e sbloccare delle situazioni legate alla casa o alla famiglia. Dal 27 l'entrata di Venere in Pesci vi permetterà di sentirvi centrati e concreti. Febbraio, il 10 del mese, Mercurio in congiunzione a Plutone in Capricorno, nella vostra dodicesima casa, vi potrebbe portare ad un insight molto forte, durante il quale potreste aprire gli occhi su situazioni inaspettate che vi faranno riflettere. Dall'11 Mercurio entrerà nel vostro segno, portandovi a prendere in mano la vostra vita. Vi sentirete dinamici e brillanti, con un rinnovato desiderio di indipendenza. Dal 20 del mese, Venere in Ariete vi porterà a riprendere i contatti con le persone del passato e riscoprire le gioie del dialogo. Marzo, mese molto importante per voi, Saturno, il 20 del mese, passerà in Pesci, sgravandovi molto di pesi che avete dovuto portare sulle spalle nel corso degli anni precedenti. Vi sentirete alleggeriti e ora potrete consolidare le acquisizioni ottenute dal passaggio del maestro del karma, che mentre sul momento appare come un fardello, poi quando si allontana ci si rende conto di avere le spalle più larghe e maggiore autorevolezza. Il 23 del mese il passaggio di Plutone dal Capricorno all'Acquario vi farà confrontare con un nuovo maestro che vi insegnerà come gestire il potere e come lasciare andare le paure più profonde. Preparatevi ad entrare nel tunnel del vostro inconscio. Sarà un viaggio entusiasmante se lo accetterete con il giusto distacco, altrimenti potrà essere un viaggio negli inferi. Quindi armatevi di neutralità e cogliete gli eventi con accettazione. L'impatto sarà forte per i nati nella prima decade, gli altri lo sentiranno in misura molto minore. Dal 25 Marte entrerà in Cancro, sostenendovi nelle faccende di lavoro e aiutandovi a prendervi cura di voi stessi. Aprile, il 3 del mese, Mercurio sarà in Toro. Sarà un ottimo momento per effettuare dei chiarimenti in famiglia e seguire carte o documenti relativi alla casa. Dal 20 anche l'entrata del Sole nel vostro quarto campo aiuterà a far chiarezza con i familiari, mentre dal 21 si dovranno elaborare nuove strategie perché Mercurio retrogrado vi darà uno stop. Forse ci sarà da guardare qualcosa in modo più accurato. Dal 20 del mese ci sarà un'eclissi molto forte che potrà toccare eventi connessi alla casa o alla famiglia d'origine. Osservate con distacco gli eventi e procrastinate eventuali decisioni importanti. Maggio, l'asteroide Pallade entrerà in Leone. Potrete incontrare persone che apprezzerete per il loro coraggio e per la loro determinazione. A maggio vi sarà un'eclissi parziale di Luna. Potreste vivere delle montagne russe a livello emotivo. Connettetevi al cuore e aspettate che finisca la burrasca. Il 7 del mese Venere entrerà in Cancro, sarete favoriti per le situazioni lavorative e sarà un ottimo momento per prendervi cura del vostro corpo. Il 16 del mese Giove entrerà in Toro, mettendo il focus su situazioni che riguardano la casa, la famiglia e la vostra infanzia. Dovrete fare un po' attenzione alle finanze perché Giove in quadratura potrebbe portare a qualche spesa imprevista, in particolare per i nati nella prima decade. Giugno, a partire dal 5, Venere farà il suo ingresso in Leone, favorendovi negli incontri e sostenendo la vostra vita sentimentale. Dall'11 giugno, Plutone tornerà in Capricorno, riportando la riflessione sulla vostra interiorità, ma alleggerendo un po' i nati nella prima decade. Dal 27, con l'entrata di Mercurio in Cancro, sarete ben orientati sul lavoro e potrete esprimervi con determinazione e soddisfazione. Luglio, dal 10 del mese, l'entrata di Marte in Vergine vi farà sbloccare delle situazioni legate alle finanze, sostenendo la passione e rendendo particolarmente intense le relazioni. Il nodo lunare entrerà in Ariete a partire dal 12 del mese, portandovi delle esperienze karmiche in aree della vita legate alla comunicazione o ai fratelli, o per chi non avesse fratelli potrà riferirsi al gruppo dei pari, amici o cugini. Dal 23 il sole entrerà nel vostro settimo campo, aiutandovi a comprendere meglio le dinamiche nelle vostre relazioni, mentre dal 28 Mercurio in Vergine vi aiuterà a mettere a posto le finanze e vi renderà molto analitici. Agosto. Ci potrà essere qualche battuta d'arresto verso il 2 del mese con Mercurio opposto a Saturno, ma già dal 10 con Mercurio trigono a Giove potrete avere delle buone intuizioni che si riveleranno fortunate nella sfera finanziaria. Dal 23 Mercurio inizierà il suo moto retrogrado, portandovi a riflettere su alcune situazioni e rivedere il legame con delle persone con cui eravate forse aperti in modo un po' troppo precipitoso. Marte entrerà in bilancia il 27 del mese. Potrete organizzare nuovi progetti e attivare nuovi percorsi. Settembre, dal 4, Venere in Leone riprenderà il suo moto diretto. Vi sentirete di nuovo liberi di esprimervi nelle relazioni e si apriranno nuove opportunità di incontri. Il 15 anche Mercurio riprenderà il suo moto diretto dalla Vergine. Il 25 effettuerà un benefico trigono con Giove, sostenendo la fortuna e le finanze, mentre il 30 effettuerà un trigono con Urano, favorendo gli sblocchi e le espressioni di indipendenza e di creatività. Ottobre. Mercurio entrerà in bilancia sostenendovi da un favorevole trigono di nona casa. Sono propizi gli spostamenti e gli studi. Dal 12 del mese Marte entrerà in Scorpione portando cambiamenti sul lavoro. Potreste vivere momenti di impazienza. Cercate di mantenere un atteggiamento costruttivo anche se dovrete dire delle cose spiacevoli. Dal 22 anche Mercurio entrerà in Scorpione rendendovi creativi e ottimizzando le vostre capacità a livello professionale e lavorativo. Dal 28 l'eclissi di Luna tra Scorpione e Toro vi porterà a sentirvi un po' confusi sulle faccende familiari. Prendete tempo e lasciate che i nodi si sciolgano da soli. Novembre, dall'8 del mese, Venere entrerà in bilancia, favorendo incontri e uno stato di condivisione e vicinanza affettiva con le persone a voi care. Dal 10, Mercurio in Sagittario vi darà sostegno per ampliare il vostro giro di amicizie. Il 22, il Sole e poi a seguire Marte, il 24, entreranno in Sagittario. Sarà una fase brillante, con Sole, Marte e Mercurio in aspetto favorevole e vi sentirete desiderosi di condividere con gli altri il vostro mondo interiore. Dicembre, Mercurio entrerà in Capricorno. Vivrete una fase di profonda autoanalisi che attuerete in modo concreto e sincero. Dal 4, Venere in Scorpione vi aiuterà sul lavoro e nelle relazioni professionali. Vi sentirete ben disposti a collaborare e condividere con i colleghi le vostre conoscenze. Dal 13, Mercurio inizierà il moto retrogrado, portandovi ad una fase di attesa. Poi rientrerà in Sagittario il 23 di dicembre, dandovi la possibilità di sciogliere dei nodi con amici o conoscenti. Dal 29, Venere in Sagittario vi riporterà al piacere della condivisione e degli scambi amicali. Nell'insieme, l'anno sarà all'insegna del cambiamento. Le lezioni di Saturno volgono al termine. Il maestro del karma vi terrà lezione solo per i primi 2 mesi dell'anno, mentre l'entrata da fine marzo di Plutone porterà ad intraprendere nuovi percorsi. Viaggi in profondità nell'inconscio. La riflessione sarà sulla vera natura della libertà, sull'essenza delle dinamiche di potere, di come esse si esprimano esattamente come le onde del mare, in un cosmo coerente ed interconnesso.